Allora, le donne che hanno chiesto aiuto ai centri antiviolenza del coordinamento sono 3.139. Di queste, le donne che sono invece accolte nelle strutture di ospitalità e quindi nelle case sono 2.318, di cui 1.497 italiane e 821 straniere. La maggior parte di queste donne hanno dei figli e quindi 1.644 quindi sono le donne che hanno figli. Quindi questo proprio per sottolineare l'importanza del dato della presenza di figli e quindi bimbi, bambine, bambini che hanno assistito nelle migliori delle ipotesi alle violenze patite subite dalla madre. Quindi ci sono state 2.360 nuovi contatti, quindi che significa per noi 2.360 donne nuove che i centri antiviolenza prima non avevano mai intercettato. E quindi questo è un dato importante, così come è un dato importante che quest'anno c'è stata una riduzione delle donne in percorso per più anni, perché questo significa che più donne hanno avuto la possibilità di iniziare un percorso veramente di autonomia e non sono state in qualche modo ancora in carico, tra virgolette, al centro per più di un anno in sostanza. Quest'anno, al 30 di ottobre, noi abbiamo avuto un aumento rispetto all'anno scorso, insomma, piuttosto considerevole, di donne che si sono rivolte ai centri antiviolenza del coordinamento dell'Emilia-Romagna. C'è stato un aumento delle donne, nuove rispetto a quelle che erano già in percorso e quindi evidentemente c'è comunque un fenomeno che continua in evoluzione. Questo ci dice che, come abbiamo sempre detto, anche se magari negli ultimi periodi sembrava che il numero si fosse un attimo fermato, in realtà il fenomeno è in continuo cambiamento e c'è sempre un sommerso molto, molto rilevante. Quindi ricordiamoci sempre il dato Istat che le donne che chiedono aiuto ai centri antiviolenza sono il 4,9%. Quindi comunque c'è veramente un grosso lavoro che, devo dire, abbiamo fatto e stiamo facendo in questi anni come centri antiviolenza, ma anche in collaborazione con la Regione, con l'assessore Appetiti, perché c'è uno scambio costante nelle diversità, un confronto veramente molto utile che ci consente di fare delle politiche ad ampio raggio e quindi di lavorare su tutto il territorio della Regione con tutti i nostri centri, quindi in maniera sinergica. L'obiettivo è sempre quello di dare maggiore informazione possibile alle donne perché sappiano che sul territorio ci sono delle associazioni di donne che sono pronte ad ascoltare altre donne, perché questa è la nostra specificità. E cioè quello di essere associazioni non istituzionali che muovono dalla relazione tra donne e che quindi questo per loro è la metodologia fondante, fondamentale. E devo dire che tutte le attività che noi facciamo, anche di prevenzione nelle scuole, di formazione, evidentemente nel tempo danno i loro frutti. Chiaro, noi non ci illudiamo che sia un dato che come dire, ci deve confortare, no, anzi ci deve sconfortare perché il numero è elevatissimo di donne. Siamo consapevoli di lavorare magari in maniera efficace nel momento in cui abbiamo più donne che ci chiedono aiuto e più donne che si rivolgono a noi, pensando che i centri antiviolenza possono effettivamente essere una risorsa del proprio territorio e credo che questo debba essere un punto politico per tutti, cioè sostenere, aiutare chi da ormai 30 anni si occupa di questo tipo di tematiche e che quindi ha un'esperienza veramente appunto trentennale con un confronto costante col territorio. Non c'è una donna standard che chiede aiuto ai centri antiviolenza. Sappiamo che di solito prevalentemente sono comunque donne italiane, poi ci sono le donne straniere. La richiesta di aiuto delle donne italiane è diversificata perché chiaramente le donne italiane hanno maggiori risorse all'interno del territorio e quindi i loro percorsi sono differenti, ma perché diverse sono le risorse loro personali rispetto a una donna straniera che spesso non ha neppure dei riferimenti familiari o amicali. Sono donne che nella maggior parte dei casi hanno dei figli e questo è un tasto veramente importante da ricordare perché non dobbiamo dimenticare che la violenza sulle donne ha delle conseguenze anche sui figli che nella migliore delle ipotesi hanno assistito a queste violenze, quindi sono vittime di violenza assistita e sono tante le donne che sono entrate nelle nostre case con i loro figli. Le violenze, come sapete, non sono mai di un solo tipo, ma ci sono violenze fisiche, psicologiche, economiche, sessuali e quindi non succede mai che una donna ci racconti di un unico tipo di violenza e sono sempre tanti tipi di violenza diverse che incidono profondamente sull'autostima, sulla capacità della donna di chiedere aiuto perché sono convinte che questo aiuto non lo troveranno. Ecco perché è importante in giornate come questa, ma dobbiamo sempre augurarci che non ci sia solo il 25 di novembre, noi lo ripetiamo sempre, dobbiamo sempre ricordarci che le donne devono sapere in qualsiasi momento di poter chiamare un numero di telefono che è il numero del centro antiviolenza, che nessuno gli chiederà il nome, non gli chiederà cioè potrà quindi anche chiedere aiuto in anonimato in maniera da poter accedere a più informazioni possibili per poter iniziare un percorso di autonomia che, ricordiamoci, per ciascuna donna è diverso, perché ciascuna di donna ha la propria, cioè donna ha la propria storia, le proprie esperienze, quindi sono tutti percorsi diversi, ciascuno ha la sua storia.